Siamo con Francesco Zannot, direttore artistico della sesta edizione della Biennale di Fotografia al MAST. Bologna, frettolosamente, in maniera immediata, si dice città del cibo, no? In questo caso lo sguardo è ben più ampio e ben più esteso. Nell'apertura ha detto non sarà di gastronomia in maniera particolare, non sarà di fotografia dedicata al food. Qual è la filosofia di questa rassegna? Esattamente così. L'idea è quella di lavorare sulla complessità del cibo, del cibo come un oggetto complesso, come un oggetto stratificato del cibo e dell'industria alimentare. E quindi ogni mostra sarà dedicata ad una particolare declinazione di questo tema, di questo argomento, tenendo presente la sua vicinanza ad una serie di mondi, di settori, di argomenti che ci riguardano e che gli sono più o meno vicini. Abbiamo nominato l'economia, l'ecologia, la demografia, la filosofia, la tecnologia naturalmente, che è parte centrale del percorso di fotoindustria, e molto altro che ha a che fare con il cibo, in cui il cibo è protagonista. Per ogni sede una declinazione, trovo tutto ciò veramente molto particolare anche per la scelta delle sedi, di cui daremo qualche accenno. Allora, ovviamente al MAST lavoro e quindi vi è una specificità di lavoro, produzione e cibo. Sì, la mostra del MAST è dedicata ad Ando Gilardi, è una mostra in cui Ando Gilardi è presentato sia come fotografo, sia come autore di una straordinaria opera, che è un'opera per me quasi concettuale, una fototeca che ha cominciato a mettere insieme nel 1959 e che raccoglie 500.000 immagini di altre immagini. Da una parte quindi Ando Gilardi, fotografo prevalentemente negli anni 50, un fotografo molto impegnato e che si dedica alla realizzazione di fotoracconti, fotostorie, lui li chiamava così, sulle persone che lavorano, in particolare agricoltori e operai all'interno delle industrie. La seconda parte della mostra invece è una collezione di materiale e di immagini estratti da questo straordinario archivio che mette insieme, ovviamente, immagini inerenti all'industria, come se noi avessimo digitato alimentazione all'interno del motore di ricerca di questo archivio e abbiamo estratto e riorganizzato i materiali che vengono fuori, che sono sorprendenti secondo me. C'è un'altra grande attinenza che ho notato, lo sguardo della rubrica ovviamente eterogeneo, però l'importanza per l'arte figurativa. In questa stessa mostra, ma ne vedremo anche delle altre, c'è un grande dialogo con altre espressioni artistiche, non solo fotografia, ma anche con l'arte figurativa, con la pittura. In questa stessa mostra abbiamo visto delle immagini riprodotte in maniera reiterata, appunto, che danno importanza a tutto ciò. Sì, verissimo. Cerchiamo di mettere la fotografia in dialogo con quello che le sta intorno e non tanto di isolarla, no? Per tanto tempo la fotografia è stata anche in qualche modo ghettizzata, è qualcosa che ha fatto a se stessa, e cerchiamo di portarla invece fuori dal suo contesto e metterla a confronto con altre discipline, innanzitutto altre discipline del linguaggio artistico, con la pittura, con il cinema, con l'architettura, la scultura, la performance e quant'altro. Quindi una fotografia che si sta ibridando in qualche modo negli ultimi anni, e cerchiamo di dar conto di questo mutamento, e che si mescola, in ogni caso è sempre stato così, con il mondo che le sta intorno. Resto incantato da un'esposizione dove alla sede, mi pare il Mambo, mi corregga se mi sbaglio, ci sono attinenze addirittura per immagine personale, almeno di una tavola che riprendeva, secondo me, una piazza di De Chirico quasi. C'era questa colonna classica in mezzo, e quindi l'aspetto legato alla fotografia, arte figurativa, nella sede che ha una grande collezione di Morandi, fra l'altro, è decisamente importante e anche esteticamente molto bello. Sì, in quel caso presentiamo la mostra di Jean Gruver, che è una fotografa americana, inizia a lavorare negli anni 70 e diventa una protagonista della storia dell'arte contemporanea, e abbiamo riprodotto un ambiente domestico all'interno di quel contesto, perché domestico è il contesto in cui Jean Gruver realizza buona parte delle sue immagini, certamente quelle che l'hanno resa più celebre, e questo ambiente è una cucina fondamentalmente. Lei realizza una serie di still life, di nature morte, nella cucina della sua abitazione, spostando in qualche modo il luogo di lavoro dell'artista dallo studio ad un luogo invece più intimo e personale. E all'interno del Mambo abbiamo ricostruito una ipotetica casa, un modello di casa, un campione che somiglia alle case pop vernacolari americane in legno e che ospita il cuore di questa esposizione. Come è avvenuta la selezione di questi artisti? Come è nata? Siamo partiti da una selezione di moltissimi nomi, fino a 200. Moltissimi artisti nel corso dell'ultimo secolo, perché poi fotoindustria si estende per un secolo sostanzialmente di osservazioni da parte dei lavori dei fotografi. Siamo partiti da questo nucleo di lavori e poi abbiamo scelto sulla base dei lavori che ritenevamo più importanti e più interessanti, sulla base di un criterio cronologico. Abbiamo cercato di coprire un secolo di fotografie e di storie, in qualche modo di riferimenti all'alimentazione. Abbiamo scelto in senso geografico perché ci importava dar conto della globalità ovviamente di questo argomento ed avere riferimenti culturali diversi, e anche le sedi ci hanno guidato in questo percorso, perché ogni mostra è in qualche modo accordata al luogo in cui si trova. Io la ringrazio tanto e complimenti per il lavoro eccezionale. Grazie. Grazie a voi. Grazie Buona molto. Giornata. Buona giornata.